L'altro pianeta di Laura Bettini. Buonasera, ben ritrovati per una nuova puntata dell'Altro Pianeta, nella quale ospitiamo ben volentieri Marco Magrini, collega del Sole 24 Ore. Buonasera Marco. Buonasera. E l'occasione per questa sua presenza in studio è il rapporto sviluppo sostenibile del Sole 24 Ore, che sarà in edicola la settimana prossima, il 20 di febbraio, quindi mercoledì. E in questa occasione, Marco, tu in particolare avrai l'onere e l'onore di presentare questo rapporto Kingsley per la Ellen MacArthur Foundation, nel quale si parla di temi che sono assai vicini a noi dell'altro pianeta. Di cosa si tratta? Si tratta dell'economia circolare. Che cos'è? Il concetto dell'economia circolare si oppone a quella lineare alla quale tutti noi siamo abituati, dove c'è l'estrazione della risorsa, la produzione, il consumo e alla fine lo scarto, cioè la materia prima ha un destino, una traiettoria lineare che la porta al rifiuto, e questi rifiuti rappresentano, secondo le stime di McKinsey, oltre l'80% del volume dei prodotti di consumo di tutto il mondo. Quindi immaginiamoci, sono esattamente, quindi uno spreco di risorse immense. E quindi circolare significa piegare in pratica questa linea e farla ritornare. Per farla continuamente, sostanzialmente per risparmiare le risorse di natura. Teniamo conto che, fra l'altro, in questo momento tutti i prezzi delle commodities sono sui massimi storici, quindi ha comunque senso economico di per sé pensare a riciclare, ovvero a fare questo percorso circolare. Il fatto interessante è che questa economia circolare, che non è tanto promossa da McKinsey, che è autrice dello studio, quanto dalla Ellen MacArthur Foundation, che già citavi. Chi è Ellen MacArthur? Questo può essere interessante raccontarlo. È una oggi 36enne marinaia inglese che, dopo essere riuscita a battere tutti i record della circumnavigazione solitaria in barca del pianeta, è stata insignita dalla regina Elisabetta del titolo di Dama dell'Ordine dell'Impero Britannico, e dall'alto di questa posizione ha fondato questa fondazione che si occupa di promuovere l'economia circolare. Da qui la nascita appunto di questo rapporto. Cosa possiamo dire in più per dare un po' un'idea, del risultato? Ecco, la cosa importante da dire è che l'economia circolare include il riciclaggio, al quale siamo già parzialmente abituati, perché un sacco di cose siamo abituati a riciclarli rispetto a soltanto qualche anno fa. Nel rapporto McKinsey, fra l'altro, si dice che l'Italia è ai massimi livelli nell'uso, nel riuso degli scarti alimentari domestici per produzione di biogas. Questo è un esempio perfetto di circolarità. Sì, mi pare siamo ormai secondi in Europa in questo settore. Esattamente, ma è uno dei primati italiani che non conoscevamo, ma ci sono grandi possibilità di allargare questi confini. Faccio un esempio: la Nike ormai da un paio d'anni produce scarpe e magliette, abbigliamento sportivo interamente estratto dalle bottiglie di plastica usate. Questo è un esempio perfetto di una nuova tecnologia che può cambiare proprio il paradigma stesso della produzione. Però il fatto interessante che volevo dire è che non si parla soltanto di riciclaggio nell'economia circolare. Per esempio c'è il riuso. Addirittura, soprattutto nei paesi emergenti, sta nascendo il modello dell'affitto. Cioè, faccio un esempio: una lavatrice che viene usata nel corso della sua vita da più clienti, per cui si paga il servizio invece che il possesso del prodotto. Questo è un modello molto interessante, che però che cosa necessita? Di un ridisegno da zero degli stessi prodotti. Una lavatrice che abitualmente faceva 2000 cicli nella sua vita, 2000 cicli di lavaggio, deve arrivare a farne 10.000 per poter essere usata da più clienti nell'arco della sua vita. Quindi questo presuppone ovviamente che ci siano delle infrastrutture normative per fare questo, ma c'è bisogno anche che le imprese, le multinazionali, a cominciare da loro, abbiano il bisogno e sentano l'urgenza di investire in un nuovo modo di pensare il ciclo produttivo. Certo, questo potrebbe ridisegnare anche proprio il futuro delle nostre aziende per come lavorano internamente, per la quantità di lavoro che possono offrire, dare e così via. Ma io direi più che altro il fatto interessante è perché un'azienda dovrebbe investire per fare un prodotto che dura 5 volte tanto. Noi come consumatori purtroppo siamo già abituati mentalmente all'obsolescenza programmata di un prodotto, mentre invece si tratta di avere, come dire, i necessari investimenti per inventare un nuovo prodotto. Per una azienda sono dei costi, perché mai dovrebbe farlo? Fondamentalmente perché il mercato lo chiede. I consumatori apprezzano le aziende che ho fatto l'esempio prima della Nike, che si occupano di sostenibilità e quindi le premiano, quindi può diventare un vantaggio competitivo per loro. Poi ovviamente questo provoca una grande spinta all'innovazione dentro come dire, i laboratori di ricerca delle stesse imprese, e l'innovazione si sa che sempre nel lungo periodo, nel medio periodo, porta dei risultati anche economici. Però il fatto saliente è che lo studio McKinsey dice che soltanto nel settore dei beni di consumo se le aziende adottassero un sistema di economia circolare, i risparmi arriverebbero a 700 miliardi di dollari all'anno. E questo sicuramente è un argomento importante per le aziende. È un argomento, diciamo, che si riallaccia magari anche ti strattono un po' di qua e di là, Marco, ma si riallaccia anche poi alla crisi economica, tutto un modo di vedere le cose, di riprogettare il modo in cui noi viviamo, che sicuramente fa parte di questo rapporto del Sole 24 Ore, ma che sicuramente fa parte anche delle nostre vite. Cioè dobbiamo cominciare a fare i conti con una realtà circostante cambiata, con un modo di vivere che deve cambiare assolutamente, perché ha delle conseguenze che noi vediamo nei cambiamenti climatici. So che questo è un tema di cui tu ti occupi, vediamo comunque nella nostra vita, no? Quotidiana. Sì, Laura, si parla sempre di sostenibilità, però io mi chiedo quanti dei nostri ascoltatori sappiano veramente che cosa vuol dire, che cosa c'è dietro questa parola. Allora, la definizione ufficiale delle Nazioni Unite, e ci vuole una commissione apposita per identificare questa definizione, è sostenibile un'economia che nello sfruttamento delle risorse non compromette la capacità delle future generazioni di fare altrettanto. In questo momento la nostra economia non è sostenibile. Ed è evidente, non c'è discussione, ecco, su questo punto. Ormai anche quelli più scettici, quelli che hanno via via negli anni detto che i cambiamenti climatici non esistevano, insomma, ormai devono assolutamente rendersi conto che non è normale avere Sandy a New York o avere altri tipi di buriane e bufere che abbiamo avuto negli ultimi anni. Sì, sicuramente gli 8 anni più caldi da quando sono cominciate le registrazioni del clima 150 anni fa sono tutti arrivati nell'ultima decade, per cui la tendenza al riscaldamento non c'è dubbio. Ovviamente non si può dire con certezza se Sandy sia stata provocata dai cambiamenti climatici, però il pubblico americano, per esempio, che durante l'amministrazione Bush era fortemente contrario all'ipotesi del cambiamento climatico, sembra cambiare. Perché parlo dell'America? Perché ovviamente è il paese che fino a pochi anni fa era il massimo inquinatore del mondo, la Cina l'ha superato da poco, che però si è sempre opposto sotto il profilo politico e diplomatico a qualsiasi impegno obbligatorio a ridurre le proprie emissioni di gas serra. Qualcosa forse sta cambiando con Barack Obama. In verità, o comunque c'è un'intenzione. No, in verità Barack Obama nel suo primo mandato voleva assolutamente fare una legge sui cambiamenti climatici, ma il Senato non gliel'ha proprio fatta passare. Però adesso siamo nel secondo e ultimo mandato, quindi il presidente, come ha detto pochi giorni fa durante il discorso sullo Stato dell'Unione, intende fare azioni normative sulle emissioni serra americane, anche se il Congresso si oppone, perché il suo governo ha la capacità di farlo. Ecco, questa presa di posizione così forte può essere spiegata giusto appunto da un lato dal fatto che Obama è al secondo e ultimo mandato, ma anche dal un chiaro cambiamento di rotta nell'opinione pubblica americana. Cambiamento di rotta nell'opinione pubblica italiana, cambiamenti di rotta nella politica italiana purtroppo invece non ne registriamo, Marco. No, certo, i governi italiani hanno storicamente, sia quelli di destra che di sinistra, hanno sempre tenuto molto meno in conto la questione dei cambiamenti climatici rispetto a qualsiasi altro governo europeo. Anche se non formalmente poi dopo insomma facciamo parte di tutto, ma non facciamo molto poco da un punto di vista operativo. Grazie a Marco Magrini che è stato con noi in questa puntata dell'Altro Pianeta. Vi ricordo il rapporto del Sole 24 Ore, mercoledì 20 febbraio, sviluppo sostenibile. Per scriverci l'altropianeta@radio24.it. Appuntamento alla prossima settimana alla stessa ora.